pietà dal luogo e cortesia non toglie punto d'ela. A Marzia l'incente me, donzella, non dire dal militare ardere. Alba, o difendi. Quante vaga costei, quanto gentile, se lì di far nace la superba germana. Avrai nel nostro campo bella solinda e sicurezza e scampo. Gilade, a te consegno l'illustre prigioniera,